Friuli nel mondo. Gente che torna. 37esima trasmissione dedicata agli emigrati. Lo stemma araldico della Famee Furlane di New York consta di una rondine in volo e del motto Ibis Redivis. Andrai, tornerai. Partiti verso i lidi più remoti, i figli d'Italia ritornano, magari per breve tempo, al nido natio, alla patria del cuore e del sangue, alla terra che custodisce i loro avi. Talvolta, dopo decenni d'assenza. Qui Ferdinando Primus, arrivato in aereo da Filadelfia, Stati Uniti, insieme con la moglie e la figlia. Furlans sterminats pel mont. La sparsa del discorso son nunf, ma io, col cur che mi vesunt al quel, non ci atene c'è una. Tant plui che ha incontrato il grandissimo amico Chino Ermacor. Us saluti e us mandi il cur attraverso lettere. Mandi! A Capriva, in quel di Gorizia, l'intero paese accorre intorno ai reduci, a cui rivolge il saluto il commissario del comune. Nessuno, più di chi ha provato il duro distacco dalla terra natale e sofferto la cocente nostalgia, andando incontro a dure prove per potersi affermare in suolo straniero, sa quale sia la gioia nel poter rivedere il proprio paese, da cui si era quasi sentito strappare. Gli applausi provengono dal folto pubblico accalcato sotto la pergola ad una frasca, dispensatrice dei gagliardi vini di Spessa. Giovani coppie negli antichi costumi, sollecitate dalla fisarmonica, piroettano sull'erba fresca di rugiada in onore dei festeggiati. Poetico ritorno al passato registrato dal microfono, a cui ora s'accosta il più giovane degli arrivati d'oltremare. Parla in castigiano, nella lingua della sua patria nuova. Manfredo e Valeria Sdrigotti erano assenti da 27 anni dalla loro Capriva. Ora essi vivono a Santa Fe. Li hanno accompagnati due figli e il rispettivo cognato e fratello Noé Cuzit, anch'egli da 26 anni in Argentina, a Santa Fe. Al microfono Ennio Sdrigotti, il maggior figlio dei signori Manfredo e Valeria, nato in Argentina. Sì. È nato in Santa Fe, Argentina. Por primera vez visito la patria de mis padres. Es indescriptible mi satisfacción y mi alegría. Todas las loas que me hicieron de ella son pocas ante su magnífica realidad. Imposible me será olvidarla, en especial a este Friuli, a esta Capriva, tan gentil, tan amable. La gentile signora Elda Grion di Capriva si è sposata con un militare statunitense nel 1945. È stato il suo un incontro d'amore dopo la grande tragica guerra. Ora essa è venuta per la prima volta con tre bambini nel paese natio. La signora saluta il marito lontano. Dear husband, we are here reunited with the people of Capriva in a castle of Spessa. I'm very happy to be here with them all. Bye. Here's Merlo, Jimmy, Nancy and all the parents. Luigi Tirel, dopo 28 anni di assenza, è arrivato nella sua Capriva in compagnia della sua signora Fiorinda, anch'essa caprivese. Provengono entrambi da Brisbane, Australia. Fellow Australians in general and Brisbane in particular. Here is Louis Tirel of Forster Street, Newmarket, that has left 2 months ago and shortly for a short trip here in my land of birth. I am very, very grateful to them to have provided this occasion to send our greetings to you all, and especially to you, Elvi, Doris, Bruno, and Alida, Nardin and family. And they make me enjoy every minute of it. And I'll see you again in 2 months' time. Goodbye, cheerio, friends. E valeva ben la pena di venire 20.000 chilometri per ogni minuto che non fate sgioldi con vostri affiet in questa terra nativa. Ha ragione, Mr. Gigi. Valeva proprio la pena di attraversare 20.000 chilometri di oceano dopo una lunga assenza per risentire l'odore della terra natia, per riascoltare le musiche e i canti della giovinezza. No.